lecciosa, diana rosa, morbidosa, poi golosa, divertente, contendente, e tu che non ti accorgi che resta cuocendoti a fuoco lento, anche se poi chi ama di più fra voi due è ancora lei, finché un giorno ti risveglierai come un pugile un po' suonato dal gran vuoto che ti ha lasciato. Fuggi via da lei, Diana. Capricciosa, bionda rosa, morbidosa e poi golosa, divertente, cotta al dente, e tu, tu pare non ti accorgi che non sta cuocendo soltanto me, e c'è a quel punto ormai anche con te, forse ammetterlo tu non vuoi, e sono certo che nei panni miei vorresti stare vicino a con lei, mentre il barman già pensa che un bel giorno poi finirà come pugile un po' suonato.